di conoscerti così per caso, finire ancora dentro un letto sbagliato. Come che non ci è successo mai di scopare in una macchina e poi la notte a litigare, ma poi io che ti scrivo mi dispiace, mi serve un momento. Ma lo sai che sarebbe stupendo noi due sul divano, più a pezzi di un puzzle. Ti va se ordiniamo che non ho mangiato? Com'è che non mi è capitato mai, non ci è capitato mai di amarsi nel disordine ed invecchiare in un motel, fino a urlare, perdere la voce, chiamarsi con lo stesso nome inventato. Ma noi siamo solo quelli sempre in coda lì alle poste. Non ti preoccupare, ho fatto io la spesa mentre sei già sotto le coperte e porto giù il cane. Amore, diranno è banale, non va bene innamorarsi in modo normale. Com'è che è capitato proprio a noi di conoscersi su un'app d'incontri e vergognarsi quando lo racconto in giro? Mi sento un imbranato se ripenso a quando ci siamo visti dal vivo. E guarda adesso io e te, ci commuoviamo se guardiamo c'è posta per te. Poi litighiamo se mi tiri via il piumone, se non ti ricordi dove hai messo i miei occhiali da sole. E ci chiediamo com'è che non ci è successo mai, non ci è capitato mai di amarci nel disordine ed invecchiare in un motel, fino a urlare, perdere la voce, chiamarci con lo stesso nome inventato. Ma noi siamo quelli sempre in coda lì alle poste. Non ti preoccupare, ho fatto io la spesa mentre sei già sotto le coperte. Innamorarsi in un modo normale, com'è che è capitato proprio a noi? Com'è che non mi è successo mai?